e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno, benvenuti. Oggi sono sola, Deborah non c'è, non vi preoccupate però, sarà con noi domani per una nuova puntata di Investire Informatiche. Slittato per questa volta il venerdì, ma anche oggi non mancheranno i temi di denari. Parleremo di sconti in bollette per chi ha difficoltà economica e poi andremo a Torino per un bel progetto al Museo del Risparmio. Per la pagina di cuore invece tre parole chiave: cuore, come poteva mancare, cervello e allenamento. Quindi se volete saperne di più seguiteci anche sui nostri social o chiamateci in diretta al nostro numero verde 800 24 00 24, e vi invito a raccontarmi cosa state facendo e soprattutto che tempo fa nella vostra città. Ve lo chiedo perché, come sapete, a Cuore Denari monitoriamo la qualità dell'aria e, parlando di tempo e condizioni climatiche, non posso non ricordarvi che dopo i giorni della merla di cui abbiamo parlato, oggi è la candelora, è una ricorrenza a cui sono legati molto i proverbi. Se ne sapete qualcuno ditecelo in diretta, magari anche in dialetto, potrebbe fare la differenza. Tra poco vi spiego perché, ma adesso partiamo. Allora, oggi una rassegna stampa dedicata a due progetti legati in modo diverso al mondo dei denari. Partiamo dal primo, che ha un titolo che la dice lunga: Bonus a Sapersi, un progetto che vede tante associazioni di consumatori lavorare insieme proprio per informare i cittadini in merito a un'opportunità che si può cogliere ma che tanti a quanto pare non conoscono, quella dei bonus per il pagamento delle bollette di luce e gas destinate alle famiglie in difficoltà economica. Allora, oggi torniamo a parlarne con un grande amico di Cuore Denari, un amico prezioso, Luigi Gabriele, che è responsabile affari istituzionali di Codici, centro per i diritti del cittadino. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti, è un piacere, veramente preziosi siete voi che fate un servizio meraviglioso. Bene, iniziamo con questi bei complimenti che fanno una carezzina al cuore. Allora, partiamo dalle informazioni pratiche. Ricordiamo ancora una volta, perché Gabriele, abbiamo capito che è importante spargere la voce il più possibile, cos'è il bonus per il pagamento delle bollette di luce e gas? È uno sconto sulle bollette di luce o di gas per coloro che hanno una particolare situazione reddituale o per un particolare stato di salute. Allora, partiamo dalla parola sconto. Qual è l'entità di questo sconto? Sappiamo tra l'altro che di recente c'è stato anche un aumento. Da quando scatta e di che si tratta? Allora, lo sconto è direttamente applicabile già da quest'anno. L'aumento passa dal 20% al 30% di quello che è considerato il consumo tipo della famiglia ordinaria. Fatto 100 vuol dire che su 100 euro di consumo abbiamo uno sconto del 30%. Ovviamente proiettata sul consumo più o meno ipotizzabile che si può avere con una famiglia media, se la famiglia spende 600 euro, lo sconto quest'anno passa dai 112 euro di quelli che erano l'anno scorso, invece ai 165 euro di quest'anno per quelle che sono le famiglie con oltre 4 componenti. E poi c'è tutto l'aspetto legato alla riduzione per coloro che hanno invece una particolare situazione legata a uno stato di salute, i cosiddetti non disalimentabili o coloro che utilizzano le macchine elettriche che si trovano connessi alla rete per questioni di necessità. Tutto questo, tranne l'ultimo caso che vi dicevo, quindi lo stato di salute, viene calcolato sulla base dei coefficienti reddituali, ovvero, attenzione, non del reddito massimo che ha la famiglia, ma dell'indicatore economico. L'indicatore economico quest'anno è stato alzato, pensate, fino a quasi 8.107 euro. 8.107 euro di ISEE è l'ISEE che può essere calcolato su una famiglia media di due impiegati che ad esempio hanno un affitto a carico e certo, un figlio. Quindi la platea è estremamente ampia. Per coloro addirittura che invece superano un certo numero di componenti del nucleo familiare, che hanno almeno 4 figli a carico, sono molto pochi ma esistono, l'ISEE è calcolato addirittura di 20.000 euro, quindi è estremamente ampio. Cioè, coloro che si trovano nella cosiddetta condizione di essere benestanti ma hanno 4 figli rientrano in questa categoria. Quindi non fatevi scappare questa opportunità. Come se ne fa richiesta, Gabriele? estremamente facile, si va al comune oppure si va al proprio CAF, sì, e tutto è completamente gratuito, il cittadino non deve pagare un centesimo per richiedere questo sconto, si portano esclusivamente i propri dati anagrafici, il documento di identità e l'ISEE calcolato, e viene inserita la domanda in un portale da parte del personale o del comune o del CAF, o addirittura per quelli più smart si può addirittura fare da soli, si va sul sito bonusenergia.anci.it e lì si fa una registrazione estremamente semplice, si ottiene un username, una password e da soli ci si può caricare la domanda. Naturalmente mettiamo le indicazioni sulla nostra pagina, ma quello che mi sembra, da quanto ci racconti, che l'opportunità c'è, sembra piuttosto concreta e anche chiara, eppure avete individuato la necessità di fare un progetto per passare la parola, questo perché non tutti coloro che potrebbero sfruttare il bonus colgono l'occasione. Come mai? Se ne è parlato poco, c'è poca informazione, che motivi vi siete dati? Probabilmente è una questione informativa. Tenete conto che sì, la platea di coloro che ne hanno diritto si calcola incrociando due dati, quelli Istat e quelli dell'Agenzia delle Entrate, quindi noi sappiamo con certezza che le persone che hanno un'utenza elettrica o gas, che sono connesse alla rete, che avrebbero diritto del bonus, sono circa 5 milioni di utenze, non di persone, quindi 5 milioni di utenze sono qualche milione di persone, sì, superano certamente 12-13 milioni. Non si conosce per una serie di motivi, uno perché in teoria quando si va al CAF uno dovrebbe essere informato di alcune opportunità, lo stesso al comune, ma per un chiamiamo disallineamento informativo ciò non è avvenuto. Quindi abbiamo messo insieme tutte le risorse delle associazioni consumatori, devo dire attraverso l'opportunità che ci è stata data dall'autorità per l'energia. Siamo andati sul territorio di tutte le province italiane, abbiamo fatto circa 150 incontri persino nei paesini più piccoli, sì, abbiamo coinvolto tutti, dalla chiesa fino al piccolo comune, e lì abbiamo cercato di spiegarlo soprattutto agli operatori del settore, quindi gli operatori comunali e dei CAF, ma soprattutto a coloro che sono più in contatto con i cosiddetti bisognosi, perché poi accade paradossalmente che spesso chi non può pagare la bolletta, che cosa fa? Va dal comune e chiede un aiuto. Certo. Il comune non può darlo questo aiuto per questione di bilancio, e in teoria spesso i comuni non sanno nemmeno che potrebbero invece aiutare direttamente i consumatori bisognosi attraverso l'accesso ai bonus. Quindi la necessità è quella della diffusione totale dell'informazione, cosa che stiamo facendo grazie a voi oggi. Allora, senti, ricapitoliamo in tre punti, in tre mossi, concetti chiave di questo bonus, in modo da coglierli e attivarsi. Allora, sconto in bolletta. Esiste un bonus? Esattamente, è uno sconto in bolletta per chi ha un'utenza dell'energia o del gas, anche se ci troviamo nei condomini, pensate, e siamo nel cosiddetto riscaldamento condominiale, possiamo chiedere lo sconto per la fruizione del riscaldamento. Invece per coloro che hanno uno stato di salute particolare, cosiddetti non disalimentabili, c'è lo sconto in bolletta che è ancora maggiore per questioni legate appunto allo stato di salute. Si chiede attraverso la presentazione di una domanda, serve carta d'identità, documenti fiscali e ISEE. Si fa o online attraverso il portale dell'ANCI, bonusenergia.anci.it, oppure al CAF o al comune, giusto? Esattamente. Ci arriva ogni anno non ci arrivano soldi, ma arriva direttamente lo sconto in bolletta. L'unica cosa che ci dobbiamo ricordare di fare è ogni anno allo stesso periodo rinnovare la richiesta. Tranne per coloro che si trovano in disagio fisico, che in quel caso la richiesta effettuata una volta permane nel tempo. Per il resto, soltanto nel caso in cui, ripeto, ci troviamo in condominio e abbiamo il centralizzato, per il riscaldamento, se si ha diritto al bonus, anziché lo sconto, perché non è possibile farlo in bolletta visto la centralizzatura del condominio, certo, ci arriva direttamente un piccolo assegno. Allora, Adele mi ha scritto su WhatsApp se è retroattivo questo bonus. Non l'ha chiesto se può chiederlo per gli anni per le bollette precedenti, non credo. Allora, per gli anni passati purtroppo no, però è retroattivo nei 12 mesi antecedenti nel quale si chiede. Se lo chiedo oggi, mi verrà erogato il bonus per i 12 mesi precedenti, quindi per un anno in effetti è retroattivo. Ma per gli anni precedenti purtroppo, ahimè, non è richiesto. Un altro dei gravissimi problemi è che una volta richiesto, abbiamo riscontrato che circa il 60% delle famiglie che lo chiedono una volta si dimenticano di richiederlo dopo. Quindi anche qui c'è la necessità di ricordare alle famiglie che tutti gli anni va rinnovato, purtroppo invece c'è questo inconveniente. Allora, grazie a Luigi Gabriele per essere stato con noi, a presto, e noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e vi aspetto subito dopo. Tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Cuore e denari. E ora veniamo alla seconda iniziativa che vi avevo anticipato. Parliamo di educazione finanziaria. Cuore Denari, ci occupiamo spesso di tutte le iniziative che si attivano nel nostro paese per sensibilizzare i cittadini ad occuparsi con maggiore consapevolezza e anche interesse delle questioni finanziarie, personali e familiari, senza affidarsi proprio a occhi bendati e occhi chiusi a intermediari e professionisti, vedendo il mondo dei denari come un mondo misterioso. Allora, tra le tante storie che vi abbiamo raccontato c'è anche quella di successo del Museo di Risparmio di Torino, nato qualche anno fa, con l'obiettivo di creare un luogo innovativo, infatti è quasi completamente interattivo, se possibile divertente, rivolto a famiglie, adulti ma anche bambini, a cui permettere di avvicinarsi al concetto di risparmio e di investimento con un linguaggio semplice, chiaro, diretto. Noi abbiamo in collegamento con noi Giovanna Paladino, direttrice del Museo del Risparmio. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai miei ascoltatori di Radio 24. Allora, noi l'abbiamo invitata perché proprio in questi giorni viene lanciata al pubblico una bella iniziativa dal titolo Quel genio di mia nonna, dai libri di casa al Kakebo. Allora, prima di scoprire cos'è il Kakebo, ma molto probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori già lo sanno, fatevi avanti, spieghiamo un po' di che si tratta. In pratica, il Museo del Risparmio fa un appello alle famiglie italiane alla ricerca dei vecchi libri dei conti della famiglia, è corretto? Ho capito bene? Sì, ho capito benissimo. Vogliamo sensibilizzare le persone, le donne, gli uomini a cercare i libri dei conti di casa che le proprie mamme, le proprie nonne avevano nei cassetti, perché non vogliamo fare una mostra storica, Cerchiamo di sensibilizzare su come le persone più anziane di noi hanno pianificato le loro entrate e le loro uscite a fronte di quello che era un vincolo di bilancio che spesso dovevano affrontare. Ci sembra un modo intelligente per capire che quanto è importante pianificare per raggiungere degli obiettivi, che spesso erano anche obiettivi piccoli, magari l'acquisto della lavatrice, il parrucchiere. Certo, la televisione. Maestra, no? Esattamente, esattamente. Quindi quello che vogliamo fare è sensibilizzare tutti, cerchiamo questi libricini nei cassetti, sicuramente li troviamo, non ha importanza il valore storico, l'importante è il valore affettivo, riuscire a rimettersi anche in connessione con quelli che sono dei valori economici, no? Perché le nostre nonne, i nostri nonni avevano l'abitudine di pianificare, dobbiamo certo. Riprenderla, è estremamente importante. Allora, intanto all'800240024 potete iniziare a raccontarci, avete ancora un po' di minuti, se c'è un ricordo della vostra nonna, del vostro nonno, della vostra famiglia in generale, legato alla gestione del denaro e dei risparmi. Raccontatecelo e magari fateci una foto, se si tratta di un cimelio di famiglia, potete mandarcela via WhatsApp. Dottoressa Paladino, spesso noi ci affidiamo, anche per quanto riguarda la salute e i rimedi della nonna, alla saggezza che le persone più anziane ci hanno trasmesso, in famiglia in particolare. Questo vale anche per la capacità di gestire il denaro e amministrare i risparmi. Insomma, le nostre nonne e anche i nostri nonni, come lei ha già sottolineato, ci sapevano fare. Voi che cosa avete scoperto? Come spendevano le nostre nonne? Beh, onestamente abbiamo avuto anche racconti di persone che ci raccontavano di come le nonne riuscivano a avere anche dei piccoli fondi neri che poi venivano utilizzati per diciamo così, per acquisti di piccoli desideri, appunto, che potevano essere un vestito particolare di nascosto dal nonno, cose di questo genere. Però ora, quello che è sicuramente interessante è capire come le donne e gli uomini di qualche anno fa, avendo dei vincoli di bilancio molto forti, si ponevano il problema di come gestire il denaro. che è una domanda a cui molte famiglie non riescono neanche più a confrontarsi, con la quale non riescono più a confrontarsi, perché tutti noi siamo presi da mille cose, ma riuscire ad avere il tempo di affrontare la questione come utilizzo il mio denaro, quali sono le mie entrate, come devo pianificare le mie uscite, dove voglio arrivare, come devo risparmiare, ma non per il risparmio in sé, questa è una cosa importante, se mi dà un attimo di tempo la voglio sottolineare, il museo del risparmio non è il museo dell'avarizia, è il museo del progetto, cioè il risparmio serve per realizzare progetti, lo stesso facevano le nostre nonne, non mettevano i soldi sotto il materasso per lasciarli lì, lo facevano perché magari avevano bisogno di comprare l'arato nuovo, oppure appunto volevano comprarsi un vestito per dare una soddisfazione personale, no? Anche certo. Così che magari non era utilissimo, ma poteva essere comunque utile per l'umore, se non per il bilancio della famiglia. Quindi da questo punto di vista riuscire a pianificare per la realizzazione di un progetto è estremamente importante, aiuta tutti a affrontare anche più serenamente la vita e le decisioni evidentemente che hanno a che fare con la a coltivare anche dei sogni nel cassetto, fare dei progetti, certo. Ecco, pensare che si possa. Mi dica? La questione dei progetti, no? È la speranza di poter arrivare a quel progetto, e la pianificazione ci dà la speranza di poter raggiungerlo, è una delle motivazioni più importanti della vita, no? Tutti noi senza progettualità non avremo grande ragione, no? di alzarci la mattina, avere un progetto, un'idea, qualcosa da realizzare, che spesso ha anche un risvolto economico, se riusciamo a programmarla, a progettarla, ovviamente ci dà grandissima soddisfazione e una motivazione in più per alzarsi. Veniamo alla parola che ha attivato un po' la nostra curiosità. Kakebo, quel genio di mia nonna dai libri di casa al Kakebo. Che cosa significa? Perché questa parola? È una parola bellissima, no? È un po' l'abbiamo usata perché è un po' una curiosità, ma certo. È il libro dei conti dei giapponesi, quindi esattamente il libro dei conti di casa che avevamo noi, non si sono inventati niente, hanno copiato, no scherzo. Però, anche i giapponesi ci copiano, diciamo la verità, e già ci copiavano. Già ci copiavano, sì. Però sì, il loro libro dei conti si chiama Kakebo ed è stato, diciamo così, inventato da una giapponese, da Motoko Ani, che era la figlia di un samurai, che era stata la prima direttrice di una rivista femminile in Giappone, che appunto è una persona saggia che ha capito che questo poteva essere un modo per dare anche un po' più di indipendenza alle donne, no? Perché nel momento in cui decidono come gestire entrate ed uscite, e comunque se non una certa indipendenza, se acquisisce indipendenza. Certo, abbiamo detto che le nonne risparmiavano, un ascoltatore ci ha scritto un messaggio, la mamma risparmiava e la nonna quando trovava i suoi risparmi requisiva, quindi una nonna un po' particolare. Dottoressa Paladino, come possiamo partecipare a questa mostra? Possiamo dare i nostri contributi? Possiamo mandare delle foto? Che cosa ci volete, insomma? Noi vogliamo assolutamente che tutti partecipino, si sentano coinvolti, non ha importanza il valore dei libri, del libretto dei conti di casa, no? di questo diario dei conti di casa, può essere una cosa più antica, più recente, non ha importanza, non è il valore storico, noi vogliamo il valore affettivo di questo oggetto, quindi mandateci le foto, le dovete mandare al Museo del Risparmio, quindi ce lo potete mandare con una mail ad info@museodelrisparmio.it, tramite la pagina Facebook che appunto è facebook.com Museo del Risparmio, potete condividere, noi abbiamo una pagina su Instagram, via Twitter, potete mandarlo come volete, ci mandate una foto, magari il racconto di quello che ha fatto la vostra nonna, il vostro nonno, la zia, quello, insomma, il libretto che avete, l'importante è che sia voglio dire, per voi un cimelio di famiglia, un oggetto che abbia un valore affettivo, perché è un modo per riconnettersi appunto con la saggezza, diciamo così, dei nostri genitori, dei nostri nonni, ma anche per riflettere su quanto sia importante pianificare, perché sicuramente i nostri genitori, i nostri nonni hanno fatto tantissimo con i pochi soldi che avevano, questo è sicuro, se siamo qua è anche grazie a loro se abbiamo questo benessere. Allora, Museo del Risparmio a Torino, la mostra inizierà e per quanto tempo sarà aperta? La mostra inizierà proprio per la giornata della donna, quindi sì. L'8 marzo, quindi avremo, perché vogliamo appunto festeggiare le donne con una mostra che ha comunque al centro un oggetto che a lungo è stato un oggetto gestito dalle donne, sì. e durerà per circa 15 giorni, quindi sarà dall'8 marzo al 20 marzo. Sceglieremo i libricini, no? Se riusciamo li metteremo tutti in esposizione, però forse un video ne faremo, ma comunque sceglieremo i libricini più carini e li metteremo in mostra, magari contatteremo Magnifico. Le persone che ci hanno mandato le foto e poi le mostreremo. Allora, siamo tutti invitati e siete tutti invitati a stare con me, a seguire il nostro GR, poi ritorniamo subito dopo insieme con tante notizie e anche con la Madonna Candelora. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, seconda parte di Cuore Denari, e partiamo da una notizia di cronaca, una notizia che ci ha colpito in modo particolare perché riguarda un uomo, un angelo del soccorso, come vengono chiamati tutti coloro che proprio come lui dedicano una buona parte della vita a soccorrere gli altri. Aveva solo 39 anni, si chiamava Andrea Pietrolungo, aveva un cuore grande, generoso e sapeva, come si dice proprio, no? Il fatto suo, perché era un tecnico speleologico del soccorso alpino, direttore regionale della scuola di speleologia. A gennaio aveva coordinato gli elicotteri per le emergenze maltempo per portare aiuto alle persone isolate dalla neve nel Teramano. Aveva anche partecipato ai funerali all'Aquila degli operatori dell'elicottero del 118, ricordate, caduta a Campo Felice. Bene, è morto di infarto. I giornali scrivono che il suo cuore non ha retto al freddo, alla fatica, alle tante emozioni di queste settimane. Allora, il nostro pensiero naturalmente va ai familiari di Andrea, ai colleghi, a tutti coloro che l'hanno conosciuto. Siamo vicini a loro, come a tutti i familiari delle vittime del terremoto, e anche a chi ogni giorno lotta per andare avanti nonostante tutto, con forza, coraggio e determinazione. Non dimentichiamole, proprio perché queste persone si stanno impegnando per costruire per sé e per i propri figli un futuro. Ma la notizia, così come è stata raccontata, merita un commento, una spiegazione. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Gianluca Polvani, che è responsabile dell'unità di cardiochirurgia, sviluppo iniziative del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Buongiorno professore, grazie. Buongiorno Nicoletta. Professore, noi non entriamo nel caso di Andrea, ma la domanda è possibile che freddo, stress, emozioni possano mettere in pericolo di vita il nostro cuore e quindi causare un infarto? La risposta è sì. L'esposizione prolungata al freddo, lo stress psicologico importante sono fattori scatenanti l'infarto miocardico, perché in maniera differente determinano vasocostrizione delle coronarie. Cosa vuol dire? Che cos'è la vasocostrizione? È semplice, quando siamo esposti al freddo o siamo stressati, le mani ci diventano bianche e fredde. Vuol dire che i vasi sanguigni si riducono di diametro e portano meno sangue. Quello che succede in periferia sulle mani succede nello stesso modo sui vasi del cuore, che sono le coronarie. Va ricordato che questi, che si chiamano fattori scatenanti, sono però scatenanti in soggetti predisposti, cioè che in soggetti nei quali la malattia è in qualche modo presente. Negli altri soggetti questa cosa non accade. Andrea era un tecnico e quindi, professore, il suo fisico era allenato ad affrontare sfide impegnative sia dal punto di vista fisico che emotivo. Ma aveva 39 anni ed è un'età che è delicata per il cuore degli uomini, è corretto? Sì, 39 anni è un po' tanto giovane, si parlerebbe di sviluppo di malattia precoce, perché se si considera che normalmente la malattia cardiovascolare impiega 10 anni da quando inizia a quando dà manifestazioni cliniche. Nell'uomo si manifesta fra i 55 e i 65, nella donna 10 anni dopo, vuol dire che negli uomini a partire dai 45 e 50 bisogna cominciare sicuramente a tenersi sotto controllo, perché bisogna evitare che accada come nel caso di Andrea, assolutamente. Sempre leggendo dai giornali, i giornali raccontano che Andrea credeva fosse una banale influenza, si sentiva tutto rotto, invece la situazione era più grave e l'infarto non gli ha dato scampo. Allora, professore, ci aiuta a ricordare i segnali sospetti che si devono conoscere per imparare a riconoscerli nel caso si presentino? Alcuni li conosciamo, ma altri sono più subdoli. Esatto. Diciamo che esiste una sintomatologia classica dell'infarto miocardico, che è questo dolore retrosternale, soprattutto localizzato a sinistra, si irradia, cioè si porta verso la radice del collo, la mandibola, la spalla e il braccio di sinistra, si associa spessissimo alla nausea, alla sudorazione e alla mancanza di fiato. La caratteristica di questo dolore è che è un dolore che non migliora nonostante si cerchi di cambiare posizione o ci si muova e anzi col passare del tempo tende a aumentare. Questo è il dolore classico dell'infarto miocardico, però esistono, come diceva, tante forme nelle quali il dolore non è ben chiaro o definibile ed esiste addirittura una fascia di popolazione, circa il 5%, in cui pur avendo infarto non ci sono sintomi. Questo è uno dei motivi per cui quando si arriva in ospedale non è necessario fare solo l'anamnesi, cioè la storia, ma ci si basa anche su prelievi del sangue che permettono di valutare il danno cardiaco. In ogni caso, laddove questi sintomi che abbiamo riportato siano presenti, bisogna sempre pensare a una forma di sofferenza cardiaca, angina o infarto, e farsi subito vedere. Il tempo è vita. Assolutamente, nel caso specifico, assolutamente sì. Grazie professor Polvani per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie, buona giornata, grazie. E proseguiamo con un'altra notizia, questa volta arriva da un gruppo di ricerca italiano. Sentite bene, parlare due lingue protegge dall'Alzheimer. Se siete bilingui, se lo sono i vostri figli, restate. In linea con noi la professoressa Daniela Perani, direttrice dell'unità di neuroimaging molecolare strutturale al San Raffaele, docente presso l'Università Vita Salute, coordinatrice della ricerca che è stata pubblicata su PNAS, che commentiamo insieme. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Intanto grazie per essere con noi e anche per il vostro lavoro, perché i risultati del vostro studio danno un contributo importante perché individuano fattori capaci di ritardare o contrastare una malattia che è purtroppo ancora priva di cure farmacologiche efficaci. Quindi grazie. Grazie, grazie dell'apprezzamento. Allora, partiamo dall'inizio. Ci racconti come si è svolto lo studio, chi avete preso in esame, quali strumenti avete usato per arrivare a dimostrare che le persone bilingue risultano più protette contro la demenza di Alzheimer, che si manifesta in queste persone in età più avanzata e con sintomi meno intensi. Anche questo è un aspetto molto interessante. Professoressa. Certo, dunque noi siamo proprio partiti da queste evidenze recentissime, diciamo degli ultimi due anni, tre anni, che hanno dimostrato, che sono studi epidemiologici, quindi su un grande numero di soggetti, che hanno dimostrato che c'è un ritardo, quindi un delay, un ritardo all'insorgenza della demenza, non solo della malattia di Alzheimer, ma anche di altri tipi di demenza, in popolazioni che parlano più lingue o più dialetti. Queste evidenze sono prevalentemente state riportate su popolazioni dell'India, che parlano molti dialetti e che sono anche di livello culturale non elevato. Ecco. Per cui ecco, questa cosa è emersa in maniera importante. Su queste basi noi abbiamo detto abbiamo dei metodi per studiare il cervello direttamente, come funziona e qual è la sua alterazione nella malattia di Alzheimer. Quindi proviamo a considerare questo tipo di terribile malattia. E abbiamo studiato dei soggetti che noi vediamo in ospedale qui da noi a San Raffaele sempre con la positron emission tomography per lo studio dell'attività metabolica cerebrale, che significa lo studio in vivo dell'attività dei neuroni. Sì. Che noi e altri gruppi abbiamo dimostrato essere alterata nel caso di malattia neurodegenerativa con demenza. E a questo punto abbiamo detto vediamo se invece è diverso per soggetti che sono altrettanto colpiti da questa terribile malattia, quindi hanno la demenza, ma che vivono in un ambiente bilingue, vista che l'ipotesi era questa, deve esserci qualcosa di differente. Quindi dove trovare in Italia, perlomeno stando vicini al nostro ospedale, una popolazione del genere? Beh, nell'Alto Adige. Adige parlano italiano e tedesco. Esattamente. Allora, la prima cosa era trovare persone che parlassero questa lingua da tutta la vita, quindi non è stato difficile perché le popolazioni colpite, le persone colpite da demenza hanno una certa età e vivere in Alto Adige in questo periodo della loro vita ha proprio consentito loro di usare le due lingue per obbligo familiare e sociale. Certo. E quindi abbiamo selezionato queste persone, le abbiamo anche studiate per il livello di esposizione di uso della lingua, con un questionario ai familiari, a loro, eccetera, che ha dimostrato che insomma c'era una certa distribuzione, parlare due lingue con la stessa nella stessa quantità o un pochino meno, un po' di più, ma comunque per tutto l'arco della vita. Questa è stata la base e le premesse allo studio. Poi i risultati sono quelli che lei ha un po' descritto e che posso riassumere rapidamente in questo modo. Cioè, abbiamo scoperto che queste persone bilingui hanno una riserva cerebrale molto più importante dei monolingui, tanto da, questo è un po' controintuitivo, avere una alterazione dell'attività neurale più grave dei monolingui. Cosa vuol dire? Che loro hanno un po' consumato questa riserva cerebrale senza avere importanti sintomi cognitivi, quindi magari restando ancora immuni dalla demenza, proprio perché avevano più sinapsi, più attività neurale, maggior connettività indotta da questa situazione sociale del parlare più lingue. E quando noi siamo andati a studiare il loro cervello, a parità di presenza di demenza, questo era più compromesso. Perché si era, io dico sempre così, si erano un po' mangiati tutta la riserva. Ma non solo, abbiamo trovato qualcosa di ancora più interessante, che il loro cervello, nelle componenti non ancora intaccate dalla malattia, soprattutto le aree frontali, c'era una maggior connettività. Quindi l'usare due lingue mantiene anche in presenza di demenza, ma ovviamente si è costruito nella vita tutto questo, una capacità di connessione dei circuiti, soprattutto quelli esecutivi, di controllo cognitivo, molto alta, maggiore di persone monolingue. Quindi questo è, professoressa, ma usarle vuol dire usarle costantemente in maniera attiva durante tutto l'arco della vita, quindi essere esposta anche a questa seconda lingua. Questo è se io adesso imparo l'inglese. Beh, certo, se mi se aiuta una persona, ugualmente, oppure devo funziona se sono costretta a utilizzare la seconda lingua con frequenza e sento e quindi mi relaziono anche con persone che parlano questa seconda lingua. Certo, la domanda è importantissima. Diciamo due cose. Il nostro cervello è plastico, quindi qualsiasi attività io metto in atto, anche da adulto o addirittura anche da persona anziana, questo ha certamente influenze a livello del nostro cervello. Quindi questo è tutto positivo. Ma il fatto che possa creare una riserva importante è necessario che venga costantemente utilizzato. Insomma, perché impararlo e metterlo lì. Bravo. Allora, per mettere, come si dice, fieno in cascina, bisogna mettersi al lavoro da subito. Esatto. Vale anche per il dialetto, professoressa? Ma questo secondo me è importantissimo, perché adesso io, parlando con molte persone in situazioni anche così di considerazione di questi risultati, cioè io penso che sia fondamentale, ed è stato un errore, ma chi lo sapeva, nel secolo scorso, cercare di abbattere il parlare i dialetti. Ricordiamoci che a scuola era vietato, cioè i nostri genitori non potevano parlare dialetto a scuola, non parlare italiano, e forse questo è stato abbastanza devastante. Guardiamo gli esempi di questi studi epidemiologici in India, dove appunto parlare il dialetto. E anche noi, in questo piccolo numero, 100 soggetti, abbiamo visto che c'era una differenza di 5 anni. Quindi professoressa, c'è da riflettere, e quindi via con il dialetto. Noi abbiamo Maria Rosa dalla Spezia, abbiamo attivato e invitato i nostri ascoltatori. Oggi è la Candelora, ci sono tanti proverbi in dialetto riferiti a questa giornata, alla Madonna Candelora. Maria Rosa dalla Spezia, che così usiamo anche il dialetto a cuore denari oggi, chissà, che anche questa è una palestra, e di allenamento parleremo, per la mente parleremo tra poco. Maria Rosa, buongiorno. Buongiorno a voi e buon proseguimento d'anno, approfitto. Grazie Maria Rosa. Allora, guarda, io sono alla Spezia, però sono figlia di una tosco emiliana e di un sardo, quindi puoi capire i dialetti, no? Ma nell'Alta Lunigiana, dove era mia mamma, è uguale qui alla zona di Spezia, dicevano: pa candeloa dall'inverno semo fora, Speriamo, perché è stato un inverno terribile. Allora, grazie Maria Rosa. Se volete continuare a così darci i proverbi legati alla candelora, come ha fatto Maria Rosa, qui arriverà naturalmente il libro di Cuore Denari. Noi siamo qui. Saluto e ringrazio la professoressa Perani per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie professoressa. Noi continuiamo ad allenarci, perché l'elenco della ricetta salva neuroni si allunga, due lingue meglio di una, il cervello ringrazia. Io ringrazio il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, presidente di Assomensana, che è qui in studio con me, pronto a portare in palestra i nostri neuroni, a suggerirci strategie, esercizi per mantenere il nostro cervello in splendida forma. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Lei parla due lingue, parla dialetto, come si allena un allenamento? Sono ben attrezzato, continuo a frequentare i corsi di lingua, cerco sempre nuove attività, perché giustamente, come diceva la professoressa Perani, è importante avere una buona riserva cerebrale e anche una riserva cognitiva, e come giustamente ha osservato lei Nicoletta, è importante farlo, mettere fieno in canile il prima possibile. Come diceva JFK Kennedy, il tetto va riparato quando splende il sole. Ah, vedi com'era saggio. Allora, in tante occasioni noi abbiamo detto che cuore e cervello sono due organi uniti nella buona e nella cattiva sorte, tanto che quello che fa bene al cuore aiuta anche il cervello, e la ricerca lo conferma, perché quello che tiene lontano le malattie cardiovascolari allontana anche le demenze. La formula, professor Iannoccari, è molto semplice, noi l'abbiamo ripetuta in tante occasioni insieme a lei e a tanti suoi colleghi, vogliamo però ripeterla, diamo la ricetta? Sì, l'osservanza di stili di vita adeguati, il non fumare, il camminare, alimentarsi correttamente, fare socializzare con le persone, apprendere nuove informazioni, come per esempio frequentare corsi di computer, collegarsi ai social network, fare tutte quelle attività nuove che consentono di attivarsi. Ecco, uno studio recente ci informa anche che per esempio la sauna fa bene al cuore, questo lo si sapeva già da tempo, è giusto per l'abbinamento cuore-cervello, fa bene anche al cervello. Infatti i paesi scandinavi hanno un livello di incidenza di demenza inferiore, proprio perché sono più abituati a questo tipo di attività. Allora, il professor Iannoccari ci porta in palestra e ci mette subito alla prova, perché lei tutte le volte che viene qualche esercizio ce lo fa fare, ce lo insegna, in modo anche che noi possiamo poi farlo in altri momenti della giornata. Allora, oggi come ci sfida? Io dico un numero verde. Sì, e io dico una parola. Allora, io lo ripeterò per tre o quattro nel corso del programma, che si concluderà a mezzogiorno. Vedrà, tra poco sentiremo anche un altro allenatore, alleneremo fisico e mente, quindi ci sarà anche il dottor Confalonieri, intrecceremo i vostri saperi, le vostre competenze. Ne usciremo fuori vivi, non lo so. Comunque, 800 24 00 24. Sì, benessere. Allora, voi cosa dobbiamo fare? L'esercizio è questo. Ogni volta che viene detto il numero verde, successivamente io dirò una parola. Questa parola va mantenuta in memoria, quindi va memorizzata. Al termine, quando diremo abbiamo terminato, raccontateci una storia, le persone dovranno costruire una breve frase con le parole che sono state citate. Allora, la prima è benessere. Andiamo a sentire invece Ida dalla provincia di Reggio Emilia, perché noi stiamo raccogliendo i proverbi, vogliamo parlare in dialetto o in inglese o in francese, ci esercitiamo, anche questo è un bel esercizio. Ida, buongiorno. Buongiorno, glielo dico in italiano, poi no, in dialetto. Ah, ok, tutte e due, va bene. Per la candelora dell'inverno siamo fora, ma se batte il sole sulla candelina un altro inverno si avvicina. E in dialetto? Per la candelora dell'inverno siamo fora, ma se batte il sole sulla candelina un altro inverno si avvicina. Grazie Ida. Allora, un libretto anche a Ida. Intanto Ida, io ricordo anche lei, la nostra bella iniziativa, la ricordo anche al professor Iannoccari. La salute viene parlando, un mese di febbraio dedicato alle articolazioni. Allora, tutto quello che c'è da sapere e da fare per mantenerle sane, belle forti, e i nostri ascoltatori possono approfittare della consulenza degli esperti di Humanitas. Basta mandare una mail a salute@radio24.it. Mi raccomando, mandatele lì e troverete risposta. Intanto, allora, noi procediamo e professore Iannocari, abbiamo detto che cosa aiuta il cervello a mantenersi sano. La ricetta sembra molto semplice. Adesso cerchiamo anche di interpretare quel segnale che il nostro cervello ci manda e che noi generalmente pensiamo essere un segnale magari negativo o un modo con cui il nostro cervello ci segnala che è o troppo affaticato o poco stimolato. E iniziamo ad occuparci, partiamo dalle funzioni cognitive. Attenzione, concentrazione. Allora, problemi a ricordare numeri, date, appuntamenti. Che cosa ci dice il nostro cervello? Ci sta mandando dei segnali? Ci sta mandando dei segnali quando la memoria non fa il suo lavoro, il suo dovere. Sgombriamo il campo dalle troppe informazioni che la nostra quotidianità ci propone e dalle aspettative molto alte che molte volte noi abbiamo rispetto a ciò che vogliamo apprendere. Tolto questo, la memoria ci dà, quando non funziona bene, ci dà dei segnali ben precisi. Molte volte vengono sottovalutati perché attribuiti magari agli anni che passano piuttosto che a momenti di stress, eccetera. Questo è vero in parte, perché di fatto ci sono persone che ricordano meglio a 80 anni rispetto a quando ne avevano 20. Per cui la memoria è un'abilità che noi possiamo coltivare, per cui il declino non è necessariamente, non si può assolutamente, diciamo, non contrastare. Ecco, noi possiamo contrastare il declino cognitivo della memoria allenandola. Ma quali sono i segnali che mi avvertono che la mia memoria... Non riesco a ricordare il nome di una persona che ho conosciuto da poco tempo, non ricordo esattamente i dettagli di un viaggio, piuttosto che i numeri di telefono che invece prima conoscevo molto bene, oppure mi trovo in un posto e mi sento disorientato rispetto a... Allora, però riflettevo con Debora proprio ieri che rispetto agli anni passati noi dobbiamo... rispondere a tantissime richieste, dobbiamo ricordarci il PIN, dobbiamo ricordarci gli appuntamenti, il codice di accesso, insomma ne dobbiamo ricordare tante di cose, e per cui è normale che il nostro cervello ci dica sono saturo. Sì, e il nostro cervello è quello di 10.000 anni fa, per intenderci, evolutivamente lì funzionavano perfettamente, adesso le informazioni sono un po' tante. Pensiamo che un secolo fa una persona di età media ricordava tutte le informazioni che ci sono adesso contenute in un quotidiano. Ecco, immaginiamo che mole di informazioni invece affrontiamo noi tutti i giorni. Detto questo, possiamo correre a ripari. Innanzitutto alcuni accorgimenti. Quando apprendiamo un'informazione dobbiamo essere certi che non ci siano altre distrazioni, perché quelle interferiscono con la sedimentazione del ricordo. Dobbiamo elaborare le informazioni, perché è necessario che le informazioni non ci debbano soltanto passare sotto il naso, ma vanno anche considerate, gli va dato un significato. Metabolizzate. Con i cinque sensi, sì, come si dice. Esatto. Vista, olfatto. Sì, esattamente come fanno i bambini quando giocano con qualcosa di nuovo, utilizzano tutti i sensi. La stessa cosa servirebbe fare anche a noi. Allora, ci mette subito alla prova, ci dà delle indicazioni anche quotidiane. Che cosa possiamo fare per tenere allenata la nostra memoria? Allora, la memoria ha necessità di avere dei livelli di attenzione abbastanza soddisfacenti, quindi dobbiamo innanzitutto assicurarci che la nostra attenzione sia ben concentrata su ciò che ci interessa. Detto questo, possiamo memorizzare delle informazioni durante la giornata. Scegliamo noi, per esempio, quali target, quali informazioni vogliamo trovare. Può essere, ad esempio, tre persone con gli occhi verdi. Quindi noi esploriamo l'ambiente e in questo modo che cosa facciamo? Attiviamo i processi di attenzione. Quando individuiamo la persona che ha quella caratteristica, memorizziamo dove l'abbiamo vista, come era vestita, in che contesto ci si trovava. La sera, dopo cena, prima di andare a letto, si ricordano le persone, le situazioni in cui che abbiamo visto durante la giornata che avevano quelle caratteristiche. Questo lo possiamo fare in tanti modi diversi, per esempio trovare persone che hanno cinque persone che hanno le scarpe rosse. In questo periodo è difficilissimo. Un po' difficilino, sì. Però quelle ce le ricordiamo sicuro. Adesso vi ricordo che è il tempo di andare a sentire i mercati. 800 24 0024 Radio. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Sono le 11.34, ritorniamo insieme per un allenamento, alleniamo i nostri neuroni, perché fa sempre bene, perché come tutti i muscoli del nostro corpo anche il cervello ha bisogno di esercizi, cure e attenzioni per mantenersi in forma. Allora, quello che vi propongo oggi è una seduta di fitness cerebrale. Possiamo chiamarlo così, professor Iannoccari? Certo, un brain intanto, training. Grazie per essere qui con noi. Non ci sono controindicazioni. Assolutamente. Fidatevi, affidatevi, non è difficile, non è faticoso. Al posto di pesi, ciclette, step, noi utilizzeremo esercizi, pensieri, risate, meditazione, mangeremo anche qualcosa di buono. Insomma, una puntata che si presenta molto stimolante, in cui naturalmente siete invitati a partecipare. Scegliete voi se in qualità di brain personal, si chiama così, vede che anch'io provo a usare l'inglese, e quindi per darci dei consigli, oppure in qualità di allievi, e io sono la prima a iscrivermi a questo corso. Intanto abbiamo un allenatore straordinario che è il professor Iannoccari. Bene, professore, intanto 800 24 0024 cervello. Ricordate il nostro, la nostra sfida, no, nostra, è veramente il professor Iannoccari che ha detto vengo e faccio questo giochino. Tutte le volte che lei darà il numero verde io ci metterò vicino una parola. Alla fine queste parole dovranno dare vita ad una frase con un senso compiuto. Non mi vengono le parole, mi preoccupo. Non vengono vengo, le parole. Vengo da lei, mi preoccupo, c'è qualcosa da fare, la parola che è lì sulla punta e sì, non esce. Il fenomeno della parola sulla punta della lingua è un fenomeno abbastanza consueto, aumenta col passare degli anni, ma è vedi, un momento... anche Villano, aumenta col passare degli anni, può, no, però la notizia, positiva è che si può far qualcosa per ridurla, per esempio velocizzare il piglio, il meccanismo che prende le parole dal nostro magazzino lessicale. Ad esempio scrivendo per 5 minuti al giorno tutte le parole che iniziano con una lettera dell'alfabeto. Per esempio oggi tutte le lettere che iniziano con la N. Nicoletta. N di Nicoletta, nave. Nave, naso, noce, allora, eccetera, eccetera. E questo lei si è allenato a casa. Intanto se avete qualche magari segnale che il vostro cervello vi manda, di cui non dico che siete preoccupati, ma in qualche modo vi è venuto il pensiero, ma che cosa può essere? Volete un allenamento cucito su misura, un consiglio, un compito da portarvi a casa? Chiamate all'800 24 0024. Intanto... Salute. Intanto, vedi, non l'ho colta in castagna. C'eravamo lasciati parlando di attenzione e ci aiuta a capire a che cosa dobbiamo fare attenzione per capire se la nostra attenzione è efficiente, quindi... Beh, allora, intanto se parliamo con gli amici e ci dicono che ci distraiamo spesso e ci devono richiamare, piuttosto che stiamo facendo un compito e perdiamo il filo, partiamo da una stanza, andiamo in un'altra e non ricordiamo che cosa siamo andati a fare, facciamo la macchinetta del caffè e dimentichiamo di mettere l'acqua o il caffè. Tutti questi sono segnali che ci informano che il nostro cervello non sta funzionando benissimo e dobbiamo capire che cosa sta succedendo. Oppure, proprio per sottolineare nuovamente la relazione tra cuore e cervello, è probabile magari siamo innamorati, perché l'amore rende anche un po' smemorati. Si pensa all'innamorato. Sì, l'innamorato. E l'amico diventa noioso. Comunque, allora, esercizi per potenziare l'attenzione, che svolge un ruolo fondamentale, lei l'ha ben sottolineato, per immagazzinare poi i messaggi, i ricordi. Sì, allora, serve contrastare il fenomeno del vagabondaggio mentale, che è quello che prende il sopravvento quando ci distraiamo facilmente. Per cui, per far questo, attiviamo la nostra cabina di regia e, con un compito molto semplice che possiamo fare ovunque, cerchiamo nell'ambiente un elemento particolare, per cui lì dove vi trovate cercate tutti gli oggetti, per esempio, di colore giallo. Ecco, in questo modo noi focalizziamo l'attenzione su ciò che ci interessa, evitando e dissipando quella nebbiolina che un po' si mette tra noi e l'ambiente, che non ci fa essere attenti, concentrati nel modo in cui vorremmo. Ecco, focalizzare l'attenzione su un aspetto specifico aiuta l'attenzione. Se invece vi mancano le parole, abbiamo detto scrivere una cinquantina di parole, sì, all'inizio non ne verranno 50, ce ne verranno 5 e poi a mano, un altro esercizio che possiamo fare, breve ma efficace, da inserire tra i 1000 appuntamenti della giornata? Ok, cammino per strada, vedo dei cartelloni pubblicitari, prendo una parola da ciascun cartellone e li tengo a mente e faccio una frase, così come stiamo facendo noi con il nostro esercizio. 3 per volta io attivo in questo modo la nostra memoria a breve termine e la irrobustisco, la rinforzo. Allora, noi abbiamo anche invitato i nostri ascoltatori a usare le due lingue, perché tiene lontano, allontana il rischio di demenza e quindi vuol dire che mantiene il nostro cervello attivo, funzionante e giovane. Abbiamo in linea con noi Romualdo da Teramo. Buongiorno Romualdo. Buongiorno. Allora, una terra che ci sta particolarmente nel cuore, Romualdo. Sì, infatti dicevo pure alla ragazza che abbiamo vissuto veramente un periodo molto molto impegnativo, con la neve, il terremoto, senza corrente elettrica. Io sono stato 4 giorni senza corrente, con le scosse ripetute mercoledì mattina, 1,5 metri di neve, bloccati, insomma è stata un po' tragica la cosa. Lo credo. Però per drammatizzare volevo dare... Grazie Romualdo che ci ha chiamato, che ci ha dato sì, così anche, no? È venuto a trovarci perché ci Quindi sentiamo molto vicini. Quindi un proverbio in dialetto per la candelora. Sì. Se ci nengua e se ci piove, dall'inverno siamo fora. Se ci sta lo sole til, siamo in mezzo all'invernaril. Sarebbe che se un giorno piovoso o nevica, siamo fuori dall'inverno. Se invece c'è il sole un po' coperto, così allora sono ancora in mezzo all'inverno. Speriamo che questo inverno vada via presto, Romualdo, e che torni a splendere il sole, ma in senso lato, nella vostra terra. Romualdo, grazie, le facciamo arrivare un libro di Cuore Denari e insieme al libro tutto il nostro cuore, il nostro affetto. Torni a trovarci presto. Grazie Romualdo, un abbraccio forte. Ascolto sempre Radio 24 quando posso. Grazie Romualdo, un abbraccio forte e stretto. Professor Iannocari, e noi torniamo ad occuparci, ad allenare a questa sorta di allenamento, un altro esercizio che lei ci vuole suggerire? A volte può capitare di essere un po' giù di energia, a parte quelli che possono essere le complicazioni di tipo di pressione arteriosa, eccetera. La cosa è transitoria e possiamo far risalire i livelli di energia facendo un semplice esercizio, sì, battendo le mani. Dai. Come? Come facevano anche le maestre, bambini! Ecco, attira l'attenzione, perfetto. Certo. Allora, come funziona questo esercizio? Si batte una volta la mano e poi ancora un'altra volta. Poi si fa un'altra sequenza di 1-2 battute. Poi se ne fa 1-3. Poi si batte un'altra volta la mano e poi 4 volte consecutive, poi un'altra volta la mano, 5 volte consecutive. E poi si inizia la pizzica. E poi si ricomincia, però più veloce. Perché questo coinvolgimento? Quindi il corpo aiuta a... Il corpo aiuta a sincronizzare le aree del cervello. Noi siamo corpo, abbiamo usato per... Adesso poi dopo, dopo la nostra puntata chiedo a Laura Vanossi se le fa un video, così ci insegna questa battuta dalla mano sveglia cervello. Ma abbiamo promesso che avremo allenato non solamente il cervello, ma ci saremo anche allenati. Perché? Perché muoversi aiuta il cervello a stare bene. L'attività fisica, oltre a mantenerci elastici, in equilibrio, nel giusto peso, ha una valenza terapeutica sul nostro cervello. Lo conserva agile, lucido. In apertura abbiamo commentato lo studio che sottolinea come il bilinguismo allontana l'insorgenza dell'Alzheimer. Bene, numerosi studi hanno evidenziato che il movimento ha un effetto protettivo sul nostro cervello. Insomma, a noi, al nostro cervello, fa bene muoversi. In linea con noi, quando parliamo di movimento, abbiamo il dottor Franco Confalonieri. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ben ritrovati tutti. La intreccio con il professor Iannoccari, perché fra tutte e due lei ci suggerirà il movimento fisico a cui aveva già accennato, aveva già iniziato un po' il certo. Professor Iannoccari, con un esercizio molto semplice che non ci fa sudare, un semplice movimento delle mani, e il professor Iannoccari con i suoi consigli e la sfida che ha lanciato ai nostri ascoltatori. Ma dottor Confalonieri, non dobbiamo necessariamente fare fatica. No, basta muoverci. Anzi, non dobbiamo proprio fare fatica. Diciamo che la fatica può essere legata a un altro vantaggio, che è quello della vascolarizzazione dell'area cerebrale, ma eventualmente ne parleremo poi. Ma proprio il fatto di fare movimenti diversi, movimenti alternativi, attività le più diverse possibili fra di loro, mantengono attive tutta una serie di aree cerebrali e quindi prevengono, esattamente per lo stesso discorso che si è fatto sul bilinguismo, il decadimento cerebrale che è tipico dell'invecchiamento. Quindi da questo punto di vista non c'è una attinenza fatica-prevenzione, ma c'è una correlazione varietà di movimenti-prevenzione. Allora, noi ci fermiamo. Intanto tantissime richieste da parte dei nostri ascoltatori che ci raccontano. Io sono molto contenta. Ci raccontano tutte le defaianze. Loro me ne raccontano una alla volta. Io le ho tutte. Bene, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme con i nostri straordinari allenatori. Breda, i portoni più belli d'Italia. Sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Cuore e denari. E ritorno dandovi subito il nostro numero verde a cui è legato un po' la nostra sfida di oggi, 800 24 00 24. Nicoletta, a questo punto abbiamo terminato l'esercizio, per cui gli ascoltatori devono ricordare di far qualcosa e di mandarcela anche. Potete mandarla al 349-238-6666 oppure candidarvi all'800-24-0024. Ma muoviamoci, dottor Confalonieri, quindi senza fatica noi dobbiamo muoverci, perché il cervello ci ringrazia, se ne avvantaggia. Esatto. Allora, io cerco di essere molto molto sintetico, ma dare tre messaggi molto chiari. Allora, il fatto di muoverci migliora la situazione cerebrale a tre livelli. Il primo, più ci muoviamo anche senza fare fatica, ma utilizzando il nostro corpo nel modo più diverso possibile, quindi disegniamo, scriviamo, giochiamo, cuciniamo, puliamo, facciamo le attività casalinghe, questo mantiene attive tutta una serie di aree cerebrali. La seconda, più ci muoviamo, più manteniamo attiva la vascolarizzazione a livello cerebrale e quindi preveniamo tutte quelle problematiche, certo, relative a un diminuito afflusso di sangue e quindi di ossigeno a livello cerebrale. La terza, altrettanto importante, il movimento si è visto che a livello neuroendocrino migliora il tono dell'umore in genere, e tutto questo ovviamente previene un decadimento inevitabilmente legato all'invecchiamento. Quindi muoverci in modo intelligente determina effetti positivi almeno a tre livelli. Cosa ne pensa il nostro brain trainer? Vede che ormai l'inglese, adesso in dialetto non saprei dirlo. Sono d'accordo con quello che ha commentato il dottor Confalonieri. E a questo proposito, una ricerca dell'Università di Pittsburgh ha visto che camminare 40 minuti al giorno, tre volte alla settimana, evita la riduzione dell'area dell'ippocampo, che è l'area del cervello dedicata ai ricordi. Addirittura si è visto che aumenta del 2% se questa attività la facciamo in un anno. Chi invece faceva, il gruppo di controllo faceva altre cose, come per esempio stretching, ha visto diminuire le aree dell'ippocampo del 2%. Quindi il cammino aiuta, fa diventare un ippocampone. Io che cammino almeno 40 minuti di fila al giorno, ho un ippocampone enorme, dottor Confalonieri. Quindi... No, questa notazione è estremamente importante e intelligente. Lo dico. Dai, che l'abbiamo promosso, professor Iannoccari. Perché il ragazzo fa gli esercizi, è nato e poi alla fine esercita e è diventato il professore. Bravissimo, Iannoccari. Nel senso che il fatto di muoversi garantendo una vascolarizzazione adeguata, un apporto di ossigeno adeguato, un metabolismo adeguato di tutto ciò che noi introduciamo con l'alimentazione, tema in cui non entriamo ma che è fortemente correlato, garantisce proprio quello che diceva il professor Iannoccari, cioè un miglioramento non direttamente legato all'attività fisica, ma proprio legato alla funzionalità cerebrale, al tono dell'umore. Quindi è estremamente importante. Questa regola dei 20 minuti, 30 minuti, 3-4 volte la settimana di attività è fondamentale a diversi livelli. Allora andiamo a Maria da Milano, perché noi, intanto che lei ci raccontava, noi siamo stati seduti, però abbiamo attivato, abbiamo mandato in palestra i nostri neuroni con il gioco quiz del nostro professor Iannoccari. Vuole svelare le parole che ha dato? Le parole sono benessere, radio, cervello, salute. Allora Maria da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia frase è la seguente. Per il mio benessere ascolto Radio 24 tutti i giorni, così faccio bene al mio cervello e alla mia salute in genere. Brava, allora Maria. Poi se lei doveva fare anche una postillina, cuore denari, perché Nicoletta e Deborah sono le mie amiche del mattino preferite, invece che un libro ne avrei dato due, ma io ne mando due ugualmente. Grazie Maria, che dai, ci ha chiamato da Milano. Questo ci sta in mezzo. Ma io purtroppo ascolto la radio 24 tutti i giorni. Brava. Allora, dottor Confalonieri, abbiamo un minutino per dare anche un compito a chi ci sta ascoltando. Il professor Iannoccari ce ne ha dati tanti. Lei che contributo vuole dare oggi? Allora, oggi non do un compito sull'attività come tale a livello cardiovascolare, anche se ne ho parlato prima, ma do proprio un compito sul fatto di fare attività diverse dal punto di vista manuale. Cioè cercare tutti i giorni di trovare delle attività che ci impegnino in modo diverso dal punto di vista coordinativo. Quindi rifare la stanza, fare la cucina, cucinare, pulire dopo aver cucinato, rimettere a posto le cose. Io la fare faccio ordine. Tutti i giorni, ma non è che vedo grandi effetti. Com'è? Beh, mi sembra ancora abbastanza brillante, adesso ho detto tra di noi, però ok. Vabbè. Questo consente soprattutto alle persone più anziane un mantenimento di un'attività a livello cerebrale elevata molto maggiore rispetto a quello che potremmo avere se stiamo seduti su un divano, guardiamo la televisione o ci limitiamo a parlare con i parenti, con i nipoti o con gli amici. Sembra una banalità, ma è estremamente importante. E fino ad oggi i miei colleghi hanno sottolineato soprattutto l'aspetto legato al fatto che comunque c'è un'attivazione cardiologica, un'attivazione vascolare e quant'altro. L'attivazione cerebrale e legata a tutti i neurotrasmettitori legati al cervello è altrettanto, se non più, importante. Quindi noi veramente facciamo un programma settimanale nel quale diciamo: un giorno tengo pulite determinate stanze, un giorno faccio da mangiare. Quindi lei ci vuole molto, molto legati alla casa. Sicuramente se non migliora il nostro cervello, la nostra casa brillerà, e anche a vivere in un ambiente pulito forse aiuta. Professor Ian... Anche perché migliora il tono dell'umore, certo. E quindi migliora indirettamente tutto. Io sono molto pratico. No, fa bene. Un giorno esco e faccio tutta una serie di cose fuori che comunque mi attivano, vado nei negozi, guardo bravo. Le cose, le fate compo. Fate un po' di... Aiutate ecco, anche i vostri modo, amici. Oggi. In questo modo veramente mantengo attivo il cervello e prevengo il decadimento. Capisco che sia un consiglio molto pratico. No, ma io sono contenta però... se mi date consigli pratici. E ne chiedo un altro in chiusura al professor Iannoccari. Pratici, efficaci, perché le cose semplici poi sono quelle che riusciamo a fare e che nel tempo poi danno risultati. Abbiamo un minuto. Vorrei dare un'indicazione molto pratica. È una questione di atteggiamento. Quando ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo, non rinunciamo, non appiccichiamo l'etichetta di non mi interessa, ma attiviamo il meccanismo, ci provo, perché possiamo far di tutto. Il guaio è quando noi iniziamo a rinunciare, che la rinuncia sarà sempre più grande. Quindi quando qualcosa è nuovo, ci sfida, accettiamo la sfida e diciamo io ce la posso fare, ci provo. Bravo, questo mi piace, questo atteggiamento così positivo, sì. E forte. Se, a proposito di movimento, non ci provate perché avete dolore, vi sentite un po' arrugginiti, scricchiolanti, vi ricordo che febbraio è il mese delle articolazioni a Cuore Denari, che avete tutta un'equipe di esperti di Humanitas pronti a rispondere alle vostre domande che dovete fare arrivare a salute@radio24.it. Quindi collaborate con noi ogni mese, un diverso, parleremo anche di, naturalmente di vista, parleremo di intestino e quant'altro. Il nostro viaggio è iniziato, siate nostri compagni di viaggio come sempre. Allora, grazie al dottor Confalonieri, grazie al professor Iannoccari di Assomensana. Grazie Nicoletta, buongiorno a tutti. Noi ci sentiamo domani insieme a Deborah. Buonissimo pomeriggio da Nicoletta.